È un servizio dedicato alla promozione della sicurezza in bici, tanto sul piano tecnico quanto sul piano della sicurezza, della liceità, della legalità della bicicletta. Sul piano tecnico, perché faremo servizio di ciclo riparazione base, quindi un check, un controllo sulle bici dei cittadini, e faremo la manutenzione, insomma, ordinaria delle cose che non vanno sulle loro biciclette. E sul piano invece della legalità, perché sarà possibile fare la marchiatura delle biciclette e quindi ciascuno potrà marchiare la propria bici. È un servizio del Comune di Bologna ed è un servizio che punta a contrastare il fenomeno dei furti. In particolare, attraverso l'incisione di un codice sul telaio, si collega in un database la bicicletta ai dati del proprietario. E dunque, qualora la bici dovesse essere rubata e successivamente ritrovata, noi saremmo in grado, noi, la Polizia Municipale, il Registro Nazionale, saranno in grado di contattare il proprietario per provvedere alla restituzione. Ci saranno informazioni generali per i ciclisti, sarà possibile acquistare delle biciclette a prezzo calmierato, le bici che provengono da progetti sociali come Bella Coincidenza, che è una sorta di asta online legata al concetto di bici più treno. Sul sito l'altroaile.it, nella home, si trovano tutte le informazioni del progetto Bella Coincidenza, che è un'iniziativa che punta a promuovere la denuncia di furto di biciclette, e dunque chi dovesse aver subito un furto di bici e ne va a fare denuncia regolare può venire poi qui e comprare una bicicletta a prezzo calmierato. Sarà possibile invece acquistare liberamente le bici da bambino o per mutare le bici dei propri figli per delle biciclette più grandi o più piccole, insomma della taglia adatta, qui in piazza. La piazza sarà anche il punto di ritrovo di 3 appuntamenti ciclabili, cioè uscite in bicicletta a cura del Montesole, vista la città, tematiche, e dunque faremo anche un po' di scoperta del territorio e escursioni in bici. Dal punto di vista delle riparazioni, sarà possibile riparare le persone con mano propria oppure ci saranno degli esperti che faranno questo lavoro? Purtroppo l'emergenza sanitaria ce lo impedisce. Il nostro progetto da sempre puntava a promuovere l'autoriparazione e dunque l'iniziativa si chiamava riparazione assistita, perché i cittadini venivano aiutati da noi nella ricicloriparazione, quindi il nostro meccanico spiegava loro cosa fare o glielo mostrava e il cittadino non lo faceva con il nostro supporto. Adesso, a causa dell'emergenza Covid, è necessario avere il distanziamento e dunque questa cosa non è possibile. Purtroppo le bici saranno riparate dai nostri meccanici, quindi i cittadini che verranno lasceranno la propria bici, aspetteranno all'esterno mentre il nostro meccanico gliela ripara. È sufficiente venire qua il martedì pomeriggio o bisogna prenotarsi? Basta venire.